io, non loro. È un discorso che no, negli anni no, non lo voglio più sentire. Adesso sono a casa mia, sono, decido io, no. Vabbè, ti dà degli gusti, non mi interessa, mi fai danno, ti faccio danno, non me ne frega un cazzo, cioè, capito, no, te dico sinceramente, vado io, Sì, ma non c'ho voglia di stare lì a attaccarmi per queste cose qua, non ho più voglia di stare lì a attaccarmi con nessuno, no, ma ne metto io questi problemi qua, magari non dicono niente, però lo sai com'è la gente, vero? No? Un pezzo di filo, sei tu che stai di su con la televisione, però la pensano così. Ma non è, quando ho parlato questo ho fatto le prove, tutto a posto, benissimo, ma fa così, non è mai venuto nessuno a suonare il campanello. A te è andata bene così, e qua è tutto diverso, qui ci sono un liceo famiglie, non è due o tre famiglie come te sei due. Non ti guardi nulla, non ti posso dire niente, neanche. Però, vabbè. Ognuno la vede come la vede, la metti un po' più su di delle antenne della TV, non si di nulla. Poi questo aspetto qua è la mia. Peggio del tuo, questo qui è la mia. È in pendenza. Se vuoi metti già questo va gli ossi, non c'è neanche parapetto e niente su. Io una tana leggera ci vuole lì. Lo so, una tana leggera lo so, però è pericoloso via salire su. Vabbè. Lì ci vuole una tana che non gli attra con l'occhio, ma una tana leggera. Capito? Io si può fare buona tana e manca, come c'ho adesso qua, una frusta. Cappa, ma scusa, ma cos'è con ben impatto il tuo petto? Ah? Con ben impatto. Che senso con ben impatto? Che non ci sono le tegole, ci sono i cosi. La combinazione c'è. Allora tu quando sali su all'ultimo piano ci sono i magazzini che ci abbiamo. E in pratica sotto i magazzini. Allora sopra ma. Sopra il magazzino c'è questa tetta in lamiera, capito? Che l'hanno fatto l'anno scorso, perché filtrava acqua nei magazzini, si allagava tutto quanto le cantine dei magazzini. Capito. In pratica non c'è né vespaio né niente, tegole non esiste, è solo lamiera, appoggiato solo la avvitate alla lamiera. Capito. E quindi tetto non ce n'è, se era tanto in piano come ce l'avevo da mia madre, era tutta una casa grossa, che c'aveva il parapetto e tutto quanto, e io che non avevo nulla, però che se quando lo metti in bar il cazzo si fa gli ossi. E la cosa è una mattuglia che mi danno, cioè, i tuoi fratelli. Il mio fratello, eravamo in tre, eravamo io, il più grande di me e l'altro più piccolo che è morto, eravamo in tre, eravamo. Ma te ne marco di l'altro più minore, quello ha pensato con un pugilato. Anche lui ha fatto il pugilato, sì. Capito. Ma già l'ho conosciuto anche a lui, frequentava lì al circolo degli anziani pure. Sì. È morto 3 anni, cos'è? 3 anni fa. 3-4 anni fa. 3 anni fa. Di più? Allora, ha fatto gli anni, il giorno dopo è morto. Aveva 45-46 anni, no, 48 anni, io ne ho 51 e 3 anni più piccolo di me. Come si chiamava? Non me lo ricordo più. Raffaele. Ora ho capito. Che l'ha pisciato con un pugilato. Sì, faceva il pugilato. Frequentavamo Gabriele Peano, uscivamo con Gabriele Peano, si trovavamo con Mario Murgia. Ho capito. Ma Gabriele, mamma mia, scabalito va. Gabriele, ma te se lo capisci abbizzato. C'ha la testa sciolta anche lui. Sì, anche la voce, non solo suonelli, anche la voce, c'aveva una voce, ma non lo so. Adesso non lo so, però io preferisco più Luca che un coso, come cazzo si chiama, Maurizio Capriccia, che ne fa 101. No, sei diventato bravo, io l'ultima volta che abbiamo fatto il coso, l'ho dato io l'impianto per suonare, cazzo, suonante, cazzo 10, il babbo non lo sopporta, Michele, una marea. E Michele è lo stesso, oh, Michele era bravo lo stesso, vabbè la voce, cazzo, ma vanno a zecca, dai duro, però anche Michele, quando era più giovane la voce ce l'aveva. Sì, Michele, avevo fatto la serata, l'ultima che ho fatto, una delle prima che era proprio l'ultima, ed è bravo me. Lo so, però non c'ha la testa, è bravo a suonare, sì, non c'ha la testa, forse i soli li avrebbe fatto se si faceva le serate. Avrebbe avuto soldi, non dico che diventava ricco, ma stava benissimo, perché lo volevano da tutti i locali. E lui cosa cazzo andava? Era tutto cazzo sempre incicciato, cosa andava? Nei locali sulla. Tutti incicciato sempre. E già lo so, lo vedo sempre anche. Lo vedo sempre con sottilità pure al circo. Come da ieri, per carità. Non lo metti in bocca. Vabbè, cosa... Io l'ho fatto l'ultima, l'ho fatto con loro e... Ho sei cicciato, guarda, no, la voce è già più in piedi. Peggio per lui, anche lui c'ha un figlio. Ma è già malo, c'aveva quasi 10 anni. Ma chi Gabriele? E allora, c'aveva un figlio anche lui, Sì. Ma poi esci con Silvio, esci un altro me. Lui, non c'è la testa, proprio sballata. Proprio sballata c'era. Ma quello c'è Silvio. A chi? A Silvio Corso. E di dove? Della Teroce? No, non è della Teroce. Io sono nato guasto. Silvio Corso, ma di dove? Se sei vecchio. Non me lo ricordo di nome. Eppure l'ho già sentito, però non ce l'ho presente qui. L'ho già sentito questo nome. Sì, suona. Sì, l'ho già sentito. E tu adesso sei fermo tu? Sì, sono fermo, sto aspettando che... E chi è? Gabriele. Ah, Gabriele, quanto è mandato il video? No, qui c'è il padre. E questo dove sta cantando, dove sta suonando? La volta che fatto quel coso. La volta che abbiamo fatto quel compleanno. E l'è passata la volta. Un po'. Gabriele lo zappa al padre con la voce sua. Cosa? Ha detto Gabriele lo zappa con la voce sua. Sì, io avevo detto che lo zappa io. Zappa. Ah già, comunque già sotto, già. La palimpianta, già sotto, già sono abbastanza. E purtroppo sono fatti così, cosa ti devo fare? Questo è il pianto tuo? Sì. Ma dove stavano suonando? Lì al circolo? No. No, era in compleanno, era da Torpe che posso suonare. Ah. La seconda asta. Cioè, dovevo parlare. Allora mi ha rompito le cattole. Devo andare, dovevo far sicurare, ma poi me la buco il moto, mi sono buttato a casa. Che cosa? L'acqua del microfono, perché la mia. Cioè, a Costantino me l'ha mandato via. Ah. Ma non suonare con la chitarra, eh? Ah, già sono bravi tutte e due. Già suonare con la chitarra sono bravi tutte e due. Allora l'ha imparato il nonno pure di Gabriele. Io me lo ricordo quando andavano in magazzino, si sedevano tutti e due, lui era piccolo e lo insegnava col mandolino pure. E me lo ricordo che imparava da suo nonno pure, eh. Un po' da tutti. No, già è bravo, già sa suonare. Ah, già sa suonare, sì. Già sa suonare, si è fermato la mano di quelli quando si sta prendendo con la chitarra. Io si arrabbiò, ci ha rubato, perché ha fatto andare la chitarra a me. Un po' di voce non riusciamo a seguirlo. Sì, era sveglio. Ora c'è Gabriele. Non ci manca se no è bravo sì, però è bravo anche cosa, te l'ho detto, Maurizio Cappeccia è più chiara quando canta Maurizio, dai. Sì, anche in Dario, ho cognato di mia sorella, bravo, bravissimo. Sì, già l'ho visto. Ma Dario è molto bravo. Sì, io. Io la so, cazzo di che mezzo so io. Cazzo male, già bugio, Ma chi è questo? Uno del Ginco. Ehi, la mia Ginco. Sì, anche io lo so. Ciao, vabbè. Beh sì, tutto a posto. È tutto, insomma, un po' così, dai. Sì, diciamo di sì, dai, non ci lamentiamo. Lavoro sempre quello, sì. Lavoro anche troppo. Però meglio così, dai, già va bene. Quindi la Roma Marginale, di nuovo, per dare una mano ai nostri colleghi, perché erano un attimino indietro, abbiamo recuperato, adesso riparto lunedì nuovamente a Sassari, dai. Noi siamo quelli che diamo assistenza anche agli altri, dai. Vabbè, importante che si alza la vaga, a noi ci deve rinnovare il contratto per 2 anni e mi sta passando il lavoro, questo appalto qua, un'azienda tedesca, pensa a tutti. Vabbè, dai. Vieni a prendere da dove c'è. No, noi abbiamo, nel 2035 dovremo finire un lavoro che è con la Sassari, quindi ancora per un po' già ce n'è. Lavoro non vi nella, ora che ti rigiri qua, lavoro non è troppo, mi Antonio già lo sa. Lavoro ce n'è tanto, è che purtroppo la gente vuole soldi senza lavorare, quindi non riesce a trovare neanche operatori bravi oppure anche assistenti sul lavoro, diciamo, che sappiano fare il proprio, perché sono abituati a prendere soldi senza fare niente, quindi pretendono e non va bene. Poi vediamo. Pretendo, vogliono i lavori a gratis, è normale che la gente non ci va pure. I lavori li vogliono, e poi ti fanno dei contratti assurdi, perché non sono assurdi, come i contratti che ci hanno fatto a noi, per carità, ma prima di farmi il contratto per 2 anni gli dico, ascolta, prima voglio sedermi al tavolino, voglio vedere come sono le buste paghe e quanto da ora. E soprattutto nelle buste paghe cosa si mette in busta, a che secondo come te, come ti l'anno scorso, no, assolutamente non si va a lavorare con loro cosa. Poi faccio entrare Antonio, no, il problema è un altro, Manuele, come lo dico, poi chiudo il discorso perché tanto è un discorso troppo lungo. Purtroppo la la vicca sta diventando molto cara e quindi sono sempre rimasti i soliti, quindi giustamente la gente si pretende, però per via del di tutta una balana che c'è, se non riescono a aumentare gli stipendi, il datore di lavoro non è in grado di dirti sì, ti do quello, perché è tutto certificato, ora, capito? Non puoi neanche lavorare in nero, perché deve essere tutto dimostrabile. Quindi un artigiano, io parlo degli artigiani perché il mio datore di lavoro è un artigiano, però poi diciamo che siamo riusciti a stabilire un rapporto differente da quello che abbiamo, di quello che avevamo. L'artigiano paga una stupidaggine, giustamente, perché paga anche poche tasse tutto quanto, quindi lui è scritto così, però sinceramente non andava bene a noi operai, quello che ci andava, quindi ci siamo un pochino ribellati un po' tutti, abbiamo detto la nostra e lui si è allineato nelle nostre richieste. Bisognerebbe fare così anche un po' tutti, perché loro giostrano su questo fatto qua, sulla paga base, capito Manuel? Quindi a te se ti fanno un contratto è perché, non perché lo vogliono loro, ma perché è lì nel contratto, però bisogna trovare un compromesso, un giusto compromesso per essere contenti entrambi, se no non avrà la candela andare a lavorare. Cioè, tu sei andato a lavorare sì, per cosa? Per cercare di arrivare a fine mese, oppure per arrivare a fine mese e accontentarti un pochino anche di mangiarti una bella bistecca? Ma quello bisogna cercare di capire. Adesso sì, io guarda, è un'azienda proprio con la C maiuscola, perché non ho mai visto un'azienda di merda così. Io per prendere 1300 euro mi devo fare 245 ore, ma 245 ore, ma lo sai quanto sono? Mi devo fare 15 ore ogni notte, dalle 5 di pomeriggio fino alle 8 del mattino. Ma ti pare, no, e poi mi mette nella busta paga imprese di pulizia, ma come dici, io cazzo di denunciare, questa imprese di pulizia. Sì, ma infatti vedi, se tu hai il coraggio di fare quello, loro un domani ci pensano due volte a fare quei tipi di contratti lì. Ci vuole gente che è maroni sotto e dire no, io ti denuncio perché io sto facendo 8 ore, tu mi devi pagare per 8 ore e mi devi dare quello che mi spetta, non quello che vuoi tu. Se poi invece la gente si sta zitta e si prende quello che si ha, è logico che il datore di lavoro lì se ne gode, hai capito? Io ultimamente ho fatto, forse ho fatto 220 ore, 225, ma tanto di cappello a quello che ho preso, voglio dire, nel senso che mi sta benissimo, non bene, benissimo. Cazzo tu, tu sicuramente sei pagato bene, guarda, ti dico, quanto prendiamo noi, ti mette mai in testa. Ho detto altra gente, fai, sei ancora lì, no, abbiamo finito, adesso stiamo aspettando l'altro contratto, ma non mi butti più. Prima di farmi il contratto di 2 anni, voglio vedere se le buste paghe sono sempre così, oppure cambia. E la cifra soprattutto ora quanto ti danno. Se quello che mi dice, la stessa cosa, assolutamente no. Non ci vado, preferisco farmi la disoccupazione e farmi i servizi nei concerti, con gli attestati e tutto quanto. Perfetto, perfetto, è l'unica cosa che uno deve cercare di prendere il più possibile, ma nel giusto, nel senso che se tu vuoi per quello, devi farti quello, cioè le ore tue te devo pagare, Emanuele, non è che tu stai sprecando il tuo tempo per loro, e loro se ne stanno abusando. Io forse mi sono svegliato un po' tardi, perché sono stato a quello che volevo loro per circa 2 anni e mezzo, adesso non mi ricordo, però alla fine poi abbiamo visto quello che c'era in corso e ho detto no, ascolta, facciamo una cosa, tu mi fai un lavoro molto bene, però tu mi dai tot, perché sennò io non ci vengo, e mi licenzi subito, proprio così su dei piedi mi abbiamo detto, e lì insomma ha deciso di fare quello che mi ha trovato un compromesso. Purtroppo la paga base ormai non basta più, non puoi vivere con 1300 euro, poi se hai una famiglia tu sei bene, con 1300 euro non ci campi, quindi non va bene. Oggi non bastano neanche 1800, quindi vedi tu. No, non ti basta, assolutamente, non basta. Devi almeno lavorare, devono essere almeno in due in casa per lavorare, per campare. No, che bastano 1.200, 1.300, adesso sono 1.300, cazzo devi pagare l'affitto, ti paghi l'acqua, ti paghi c'è la sicurezza della macchina, si molle, ma le varie cose sono 1.300, io. In macchina si dibuchi e a pagare i corsi. Che cosa sono? Non ce la fai, no? Non ce la fai, no, tu, sono soldi, sono spese, non c'è entrato. Per carità, infatti mi sono prima di tutto, Murueo, ma che sono travagliando di poco, e cosa? Mi sto privando di, scusa che se sono intervenuto, mi sto privando di tutto io, e quando lavoro ho pagato tutti gli entrati, cazzo che cosa? Ah, vai, non andare così, no. Cioè, soprattutto qua, a casa di sanno, sono ancora a terra, gioco. Un sacco di roba a pagare, una cosa che anche tu non ha più titolo. Allora me lo faccio fare tutto io, me lo faccio fare. Guarda, ma di un nervoso, lascia perdere. Allora tu lo stesso, tu devi fare una cosa, tu, allora quanti chiedo quanto vuoi, tu devi non meno 10 euro ora, non meno 10 euro ora, perché sono neanche mi muovo io. No, quando trovo di fuoco a casa sono pagato, oggi ho fatto 3 giorni, quasi 300 euro, ho fatto solo 3 giorni di lavoro, mi ho fatto. Quando lavoro con loro io sto bene, perché sono pagato bene, cioè pochi giorni di lavoro sono pagato veramente bene, però cioè, quando me ne facevo, non lavorando anche tutti i giorni, sono arrivato a prendere anche 1.300, 1.000, 1.200, non lavorando tutti i giorni, cavolo, veramente, se lavoro tutti i giorni prendo un buon stipendio, tanto. Avessi lavorato tutti i giorni. Lo so, ragazzi, è così, purtroppo bisogna trovare una ditta seria che riesca a capire soprattutto l'operaio e insomma, e che non, è che purtroppo mettono le bastoni fra le ruote anche a loro, io lo so perché ci sono in mezzo, per un operaio che paghi 1.300 euro, lui ne paga 1.300 di tasse, quindi purtroppo è lo Stato che ci mette, gli mette in questa condizione qua, capito? Quindi tu a lui gli costi 2.600 euro, nonostante tutto tu prendi 1.300, capito cosa ti voglio dire? Lo so, ma guarda, vuole invogliare a chi sa che barusa che trabava, ma ci crediamo che sia meglio. Un peggio di là, vuole invogliare, forse come tale volta Mussolini, bussate impiccate, perché no, no, non esiste, no, non può esistere, uno peggio dell'altro, un peggio di là. Va bene, ragazzi, sono tratto giusto così a dire due cose. È un argomento che ci fa nervosire, quindi è meglio cambiare, dai, è meglio cambiare. Va bene, vi saluto. Ciao Noè, dai, sono entrato a salutarti che ero un po' senza sentirti anche. Va bene, ci si riascolta. Ciao Antonio, riprendi il mic, aspetta i saluti e poi vado via. Ehi, ciao T, dai, mi stacco anche io che devo fare alcune cose in casa. Ciao T, mi ha fatto piacere sentirti, dai, ce la riascoltiamo tutte le migliori. E se non ci sentiamo, ti do già gli auguri di buona festa, dai. Vanto. E capo, ciao T, ce la risentiamo alla prossima, auguri di buona festa. A proposito c'è ancora, avanti se ci sei. Va bene, ciao, auguri anche a voi. Ciao, ce la sentiamo. Ma Parigi ci sei? Ah, non finisco. Buonasera. Cantarlo. Mamma, bella giornata, anche io pensavo che c'era un po' di vento, con l'aria fresca. Sì, pensavo di giovina, però ho vento, non si dico niente. Ah, già è ricciato oggi, va. So che ci sono mai ancora, abbiamo un po' di roba e basta, boh. Ah, poi era mezz'ora in caso, vabbè. Vabbè. No, io sono uscito un attimo, te devo spiegare delle commissioni, dovevo andare anche lì in Viale San Francesco a vedere quanto mi prendevano a pulire i sedili, la mocchetta e le tettucce della macchina. Adesso ho preso appuntamento, il 28 me li fanno. E chi lo fa? Qui a San Francesco, Giovanni, qui sta dove c'è la scuola guida ABC, e di fronte rimane, c'è un altro lavaggio, è una via chiusa. Oh, capito. E puliscono tutto? Sì, li ha fatti Luca, della macchina sua, e come che sono usciti nuovi, Giovanni, come che ha messo sedili nuovi, belli li ha fatti. Meglio sapere queste cose, vediamo, anche la mia pure, è tutta bianca, io ci ho messo le foderine, ma le fodere originali, sai, a tutti i bambini, posto, certo, non le ho mai pulite. No, non le metto compressorini, Giovanni, non mi piace, mettere compressorini non mi piace, è bella averla pulita, con i sedili sui. Adesso il 28 c'è l'appuntamento, il 28 a mezzogiorno, ci vuole 3 ore, in 3 ore me la fa, ma me la fa come ti si dice, no, è bravo veramente, me la fa tutta, per 70 euro me la pulisce pure dentro. Quanto? 70 euro mi fa tutto, sia mocchette, tettuccio e sedili. Ah, va bene, allora va. Vabbè, non si dice, se la devo pulire, me lo dice il telefono, siamo l'appuntamento, ok? Sì. No, già è bravo Giovanni, è bravo. Ma ha detto Luca pure, vai lì, che cazzo è bravo. Mi ha mandato poi il video Luca, dei sedili suoi, cazzo, è come te che sono nuovi. E cale sì, chi Luca? Luca Malincumio. Ah, ho capito. Ok, va bene, dai. Va bene, Emanuele, devo chiedere che sta per il progetto, aspettiamo, ok? Sì, ok, dai, anche io mi stacco, rimango l'ottanta acceso, che sto facendo qua in cucina. Vabbè, Giovanni, ci sentiamo, dai, in caso mai in questi giorni già ci vediamo pure, dai. D'accordo, ci sentiamo, ciao. Ciao, Giovanni, ciao.